che si intitola Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore, autore Andrea Mardegan dell'Opus Dei di Milano, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. E siamo arrivati alla 18ª puntata. Ecco, siamo a pagina 153. Tornammo a Nazar. Ecco, a te la parola. Bene, Giorgino, ecco, effettivamente questo capitolo, Torniamo a Nazareth, è un secondo capitolo ampio sulla vita di Giuseppe, di Maria e di Gesù a Nazareth, no? Una delle gioie che mi ha dato questo libro è aver potuto fare due ampi capitoli sulla vita ordinaria, nascosta, come vogliamo chiamarla, normale, della Sacra Famiglia a Nazareth, quindi primo quando tornano dall'Egitto e questo secondo quando tornano da Gerusalemme dopo aver ritrovato Gesù nel Tempio, no? È una faccia di progresso, questo è un insegnamento che io senz'altro ho colto da San José María Escrivá, che dava molta importanza a questi 30 anni di vita nascosta di Gesù a Nazareth, quindi molto simile alla vita di ciascuno di noi, alla vita di famiglia della famiglia di Nazareth, molto vicina, molto simile a quella di tutte le famiglie di ogni zona del mondo e di ogni epoca. E allora, questo capitoletto comincia così, è Giuseppe che parla, il paragrafo lo si intitola Gesù cresceva, mi superava in statura e in forza fisica. Giuseppe dice, tornammo a Nazareth sereni, dopo aver ritrovato Gesù nel Tempio. Ci raccontò le domande dei dottori, le sue risposte, le sue domande e le loro risposte. Le custodimmo nel cuore con ammirazione. Maria capiva di più e meditava senza dimenticare. Comprendemmo che quella misteriosa sosta a Gerusalemme era nei piani di suo padre, con la P maiuscola, Dio Padre. Mi ricordai che da adolescente, anche questa è una fantasia mia che avevo messa in uno dei primi capitoli, che da adolescente anch'io avevo progettato di fermarmi a Gerusalemme per vedere Maria, Maria che, come seguendo la tradizione della presentazione di Maria al Tempio, del 21 novembre, io ho collocato appunto qualche anno nel Tempio di Gerusalemme da bambina. Gesù mi stava dicendo, in un modo che potevo capire solo io, che davvero mi assomigliava. Era davvero mio figlio, anche se non era nato dal mio seme. Me lo diceva proprio quando affermava di doversi occupare delle cose del padre suo. Quindi, questa è proprio una realtà di fantasia mia, no? Mi sono immaginato che Giuseppe, dodicenne, anche lui voleva fermarsi a Gerusalemme per poter vedere Maria, di cui si era già innamorato in giovanissima età. E dopo poi non riesce, in realtà lui non riesce a compiere questo suo progetto, e però Gesù lo fa. E quindi lui in questo estratto, no, di Gesù che dice devo occupare le cose del Padre mio, e quindi, però al contempo gli dice un'altra cosa, dice anche tu sei Padre mio perché io vedi come ti somiglio, che faccio quello che anche tu avresti voluto fare. Maria e io sapevamo che se ci avesse chiesto di poter rimanere, gli avremmo detto di non farlo per motivi di prudenza, per molti motivi di prudenza, di opportunità. E tra noi con Maria ci meravigliavamo ancora una volta di questa attitudine di Dio a entrare nella nostra storia, sovvertendo abitudini, consuetudini e mentalità. Ecco, vi faccio notare che tra le righe di questo libro sto dicendo che Maria e Giuseppe si parlano, commentano a vicenda, cercano di capire. L'abbiamo visto in tante pagine di questo libro, di capire che ci sta dicendo il Signore con queste vicende che accadono nella nostra esistenza. No? E anche in quel momento loro stanno cercando di capire quel mistero di Gesù perduto e ritrovato nel Tempio e lungo gli anni in cui sono tornati a Nazareth e riprendono la vita abituale. Così aveva fatto con noi due personalmente, nel modo di chiamarci a entrare nel suo disegno. Così aveva fatto con noi come famiglia in tutte le vicende imprevedibili dei primi anni. così ora faceva nella vita di suo figlio Gesù. Ecco, io anche mi interrompo ancora una volta nella lettura dicendo, nel rileggere questo testo che ho scritto, mi veniva da pensare, ecco, serve a me e serve, credo, ai lettori, uno degli scopi di questo libro è mettere in evidenza qualcosa che non è niente di nuovo, ma che a volte tendiamo a dimenticare, cioè che la vita della famiglia di Nazareth è stata, quindi la vita di Giuseppe e di Maria, un po' sconvolta da questi interventi di Dio, no? Noi ci abituiamo perché li celebriamo con festa, no? Noi celebriamo con festa la nascita a Betlemme, poi la presentazione di Gesù al Tempio, che però, e in fondo anche l'Epifania, che poi dopo ha prodotto la fuga in Egitto, cioè, e quindi ci siamo abituati un po', tendiamo ad abituarci a vedere questa vita, che però ha avuto questi avvenimenti prodotti da Dio nella loro vita, che sono stati sconvolgenti, ecco, quindi questo perché ci può aiutare quando anche noi nel seguire Gesù da vicino, nel seguire una vocazione, anche una vocazione matrimoniale, poi scopriamo che ci sono tante cose che ci sconvolgono, tante cose e quasi quasi ci scandalizziamo perché pensiamo, io che ti ho dato, Signore, tutta la vita, io che ho fatto un bel matrimonio cristiano e speravo di poter avere, come dire, un'autostrada in discesa, no, con i tappeti rossi, invece no, la vita cristiana è come quella di Gesù, quindi è anche irta di difficoltà, però che il Signore ci aiuta a comprendere come cammino di santità. E quindi Giuseppe continua a raccontare, no? Se avessi saputo, questo è il suo ragionamento, se avessi saputo allora che non era nei piani del Padre, con la P maiuscola, che io vedessi da vivo la manifestazione pubblica di Gesù come figlio di Dio, e sappiamo, io raccolgo in questo libro la tradizione più diffusa che Giuseppe è morto prima della vita pubblica di Gesù, no? Quindi che nei piani del Padre non c'era che Giuseppe vedesse, no? È un po' come Mosè che non ha visto il popolo nella terra promessa, cioè Giuseppe non ha visto Gesù che si manifesta, no? Al suo popolo come Messia, no? Come figlio di Dio. Allora, se l'avessi saputo, avrei dato anche questa spiegazione al fatto del Tempio di Gerusalemme, cioè Dio voleva che anch'io gustassi una sua prima manifestazione pubblica. Era stato anche un modo di ringraziarmi per quanto avevo fatto per lui fino a quel momento e di farci partecipare in anticipo alla sua angoscia del Getsemani, del Calvario e del Sepolcro, i tre giorni, no? E alla gioia della sua risurrezione. Il ritrovamento e il ritorno a Nazareth furono gioia di risurrezione. Avevamo fortemente temuto, senza neanche dircelo con Maria, di ritrovarlo senza vita. Invece era con noi, gioioso e fattivo come sempre. Ecco, questa è una cosa che mi è venuta in mente così scrivendo questo libro. No? Bellissimo, bellissimo. Forse qualche volta l'avevo anche predicata, ma non mi sono dimenticato. Però è bello perché vedere che Giuseppe e Maria come famiglia, no? Come coppia, no? Come coppia di sposi, hanno avuto la sofferenza e la gioia in anticipo del Getsemani, del Calvario e poi della resurrezione, del sepolcro e della resurrezione. Continuai, ecco, invece era con noi gioioso e fattivo come sempre Gesù. No? Continuai l'opera della sua educazione come carpentiere e come falegname. Con gli anni cominciarono ad associarci a Giuseppe Gesù, ad appellarci in greco tectones, carpentieri. Eravamo esperti nella lavorazione del legno e delle pietre. Gesù diventò con me abile scalpellino. Fabbricavamo porte, case, riparavamo selle, costruivamo chiuse. Ci contattavano per la manutenzione delle ruote dei pozzi. Il nostro campo di attività era molteplice. Ci chiamarono a dare il nostro contributo per la ricostruzione della vicina città di Sessoris, che Publio Quintilio Varo aveva distrutto e che Erode Antipa decise di ricostruire. I lavori si protrassero per molti anni. Ecco, io penso che con questa descrizione del lavoro di carpentiere, che era un lavoro molto vasto allora, molte persone che si santificano con il loro lavoro in questo tipo di lavori manuali, che sono una realtà preziosissima e grande, possono avere la gioia di sapere che Giuseppe e Gesù hanno vissuto questo lavoro, no? Quindi quelli che fanno magari un lavoro un po' più intellettuale sono più attratti da Gesù come maestro, come, no? Che nella vita pubblica insegna e fa questa specie di scuola peripatetica, no? Andando in giro per le strade insegnando ai suoi discepoli. Però, come vedete, tutti i lavori sono santi, sono benedetti da Dio, tutti i lavori noi li portiamo all'altare quando diciamo come sacerdoti sei benedetto tu Dio onnipotente, perché nella tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. In quel modo, in quel momento, non solo mettiamo sull'altare il lavoro di chi ha prodotto il frumento, di chi ha fatto il pane, di chi ha curato la vite o ha prodotto il vino, ma tutti i lavori di tutti gli uomini e tutte le donne di tutti i tempi, no? Che contribuiscono a creare la materia grazie alla quale è possibile che il corpo di Cristo, una volta per tutte generato da Maria, ma tutti i giorni riportato sugli altari dai sacerdoti, possa divenire il nostro cibo e la nostra bevanda. Allora, questo lavoro è bello immaginarci, questo lavoro di Giuseppe e di Gesù che sta crescendo. Tra l'altro, a questo punto del libro c'è un acquerello che io ho la gioia di ricordare, che quando la pittrice Maria Trevisan, che abita nelle colline del Vicentino, andai a trovare per bene, lei leggeva il libro mentre io lo scrivevo e mi venivano delle idee per questi acquerelli. E appunto sul secondo acquerello della vita normale, ordinaria di Gesù, di lavoro a Nazareth, e non le veniva l'idea, e allora a me è venuta questa idea, no? di fare un acquerello in cui Giuseppe e Gesù, già cresciuto, non so se vogliamo sedicenne, diciassettenne, diciottenne, si guardavano negli occhi tenendo insieme tra le mani una trave di legno, anche perché poi l'acquerello, uno può avere tante fantasie, ma poi deve avere quella certa dimensione per stare in una pagina del libro, quindi deve essere verticale, e ci possono fare due o tre figure al massimo, in cui ci stanno Gesù, Giuseppe che si guardano e poi la figura di questo legno e delle loro mani che lo stringono, proprio a simboleggiare ogni nostro lavoro santificato da Dio che è diventato uno di noi. E quando, questa città di Sepphoris, ecco, io dico, sono tutte cose che ho imparato dai libri degli esperti, no? Gesù vi lavorò con molto affetto per i nonni Gioacchino e Anna, che erano originari di quella città, c'è una tradizione in questo senso, no? Fu un'esperienza importante, un'occasione per crescere nella capacità di lavoro e nella conoscenza di genti diverse, di molte lingue, di tante vicende umane. Vedete che bello, no? Pensare che anche Gesù non solo è stato educato da Giuseppe, ma è stato educato come tutti noi da un'esperienza di lavoro, da un'esperienza, se vogliamo, anche di scuola, no? E ecco, oggi ci sono persone che vanno tanto all'estero, no? Per imparare le lingue, per conoscere realtà diverse. Anche Gesù, in cui, se è vero, come alcuni sostengono, che ha avuto quell'esperienza di lavoro, gli è servita umanamente per crescere. No? Il Vangelo, in fondo, di questi anni dice solo San Luca, cresceva, no? Cresceva, ecco, in sapienza, in grazia davanti a Dio e agli uomini, quindi cresceva anche dal punto di vista umano, no? Perché Gesù è veramente uguale a noi in tutto tranne che nel peccato, e quindi anche uguale a noi nell'essere persona che viene educata e che quindi cresce nelle virtù umane lungo la vita, no? Quando Gesù da grande avrebbe parlato di macina da mulino, di casa costruita sulla roccia, di città edificata sopra un monte, di lampada che sta su un candelabro e fa luce a tutta la casa, di torri che crollano, di giochi, di ruggine che consuma, di ladri che scassinano, di travi e di pagliuzze, di porte strette e larghe, ci ricordiamo, no? Tutte queste parole del Vangelo, il suo parlare avrebbe avuto la forza delle cose che le sue mani avevano costruito o aggiustato. Bellissimo. Ecco, infatti sono convinto che anche così era per le persone che lo ascoltavano e anche per noi, quando, anche se con meno vivacità, che sarebbe bello ascoltare la sua voce, ma che lo ascoltiamo quando leggiamo il Vangelo, no? Nella liturgia e anche nella preghiera personale. Gesù cresceva, mi superava in statura e in forza fisica, questa è un'esperienza di tanti papà, no? Ero sempre affascinato dal suo mistero. Lui mi amava come padre e io lo amavo come figlio. Al contempo cresceva l'evidenza del suo rapporto con il Padre del Cielo. Un giorno, durante un viaggio di lavoro, mi propose di fare una sosta sulla riva del fiume Kishon. Mi disse: Abba, papà, tu sei sempre alla ricerca della verità. Guarda l'acqua che scorre, scorre come il tuo lavoro e gli avvenimenti della tua vita. Puoi guardarla, ma non puoi trattenerla tutta, neanche con lo sguardo, e con le mani quasi nulla. Questa qua è vera, ma non è tutta la verità. Comprenderai il significato della tua vita non guardandola scorrere e cercando di trattenerla, ma guardando me. Papà, io sono la verità, io sono colui che è, sono sempre accanto a te, sempre per te. Mi stai conoscendo. Io penso che in questo dialogo che mi sono inventato di Gesù con Giuseppe, ciascuno di noi si può mettere, no? Anche se abbiamo un ruolo diverso da quello di Giuseppe, e anche se poi a volte nella Chiesa per tanti di noi abbiamo un ruolo di padre o di madre, no? Anche nei confronti di chi deve crescere, ma perché può capitare anche a noi, no? Di avere qualche volta qualche momento, come io mi immagino che abbia avuto Giuseppe, di che senso ha la mia vita, ecco, qualche distanza da quello che Dio mi chiede e quello che riesco a fare. E Gesù dice a lui, ma dice anche a noi queste cose: io sono la verità, io sono colui che è, sono sempre accanto a te, sempre per te. Mi stai conoscendo lungo la vita, capisco che sia per te difficile, sono per te un mistero, non come ogni figlio lo è per i genitori, ma molto di più. Mi conosci piano piano, ma a volte non ti fidi di te stesso e torni a guardare le cose che accadono in te e intorno a te. Guarda me, guarda il mio amore per te, guarda il tuo amore per me e troverai la verità che cerchi. No? È un po' come un invito di Gesù a guardare lui appunto quando abbiamo un po' di dubbi sull'efficacia della nostra vita e non a guardare la nostra vita, cioè non, perché lì un po' ci perdiamo tra le cose superficiali, tra una valutazione troppo limitata, no? Del valore di quello che è la nostra vita. Gesù mi commuoveva, dice Giuseppe, Maria continuava ad aiutarmi nel difficile compito. Lei, che sapeva accarezzare il cuore, il suo amore era di un altro, con la maiuscola, e lei lo irradiava. La grazia più grande per me è stata di non sentirmi più secondo. Lei mi ha fatto sentire primo sempre. La sua capacità di amare era esclusiva. In Gesù lei amava me. E al lavoro spesso chiudevo gli occhi per la fatica e mi bastava richiamare alla mente le sue carezze per ritrovare le forze. Temevo di non essere adatto con le mie mani di legno, ma lei mi incoraggiava. Chiedeva amore e dava amore in un circolo continuo. Un uomo di legno come me, nelle sue mani, è diventato un'opera d'arte, mi diceva. Tu crei con le tue mani, il tuo cuore è nelle tue mani. Puoi costruire anche me, con le tue mani puoi costruire il nostro amore. E si faceva accarezzare, costruivamo insieme il nostro amore, che non era un amore avanzato da quello di Dio, era proprio l'amore di Dio per noi. Maria mi ha fatto vivere come un uomo amato, veramente desiderato, veramente voluto per essere il padre di Gesù su questa terra. Maria mi ha mostrato fisicamente il cuore di Dio, l'abbiamo sentito palpitare nella nostra casa. Ecco, a me piace che pensai appunto che anche è vero che l'amore di Dio è sempre primo, no? E lo leggiamo nel Vangelo, che il Signore lo richiama, però è bello metterlo in armonia con tutti gli amori umani, in modo particolare l'amore coniugale, che ecco, in cui veramente è Dio è dentro all'amore tra lo sposo e la sposa, e quindi veramente lo sposo e la sposa non si sentono secondi, ma si sentono primi, al contempo tutti e due dentro al cuore di Dio, al cuore di Cristo e al cuore di Maria. È una donna energica, risoluta, paziente. la vedevo con gli altri, mi sembrava che non riuscisse ad amare nessuno di meno, era per tutti. E mi immagino che questo è l'amore di Maria che per noi è, per ciascuno di noi suo figlio, in qualche modo si vedesse anche lungo la vita di Nazareth. Con lei ho vissuto un anticipo del paradiso, dice Giuseppe. Nel suo modo di amare Gesù mi insegnava a essere padre, comprendeva la mia fatica umana, conosceva il mio cuore di legno, ma sapeva scioglierlo. E diceva sempre, due punti, virgolette, è Maria che parla a Giuseppe, amalo e basta. È venuto per amare e farsi amare. Noi gli insegniamo l'amore umano, lui ci insegna l'amore divino. Così, dice Giuseppe, la Trinità l'ho vissuta giorno dopo giorno, non la dovevo sapere, la dovevo vivere. Ho vissuto quello che voi imparate sui libri. Il mio legno si è sciolto con le scantellate dell'amore trinitario, lo spirito d'amore mi giungeva attraverso di lei, a me non fu svelato il mistero con la parola, a me fu fatto vivere. Benissimo, adesso poi ci sarà la morte di San Giuseppe, noi possiamo fermarci qui, vero? Bene, sì, poi questo allora lo facciamo per la prossima volta, Maria che racconterà questi anni e inserirà come Giuseppe è morto e così poi come... Mi ha colpito questo qui, Gesù che piano piano si svela a Giuseppe, come... Sì, perché io penso, noi abbiamo nel Vangelo solo questo svelamento del Tempio, però io mi immagino che in qualche modo, ecco, no, possa essere accaduto qualcosa di questo tipo, ecco, poi dopo... E ovviamente penso che si possa dire senza contraddire il Vangelo, al contempo, ecco, sì, penso che in qualche modo Gesù crescendo, come accade poi anche nell'umanità, no? Con i figli che cambi hanno un rapporto col padre più da pari, no? E insomma, parlano da uomo a uomo, però Gesù col suo mistero possa aver svelato qualcosa del suo mistero. Allora lo rileggo. Papà, io sono la verità, io sono colui che è, sono sempre accanto a te, sempre per te. Mi stai conoscendo lungo la vita, capisco che sia per te difficile, sono per te un mistero, non come ogni figlio lo è per i genitori, ma molto di più. Mi conosci piano piano, ma a volte non ti fidi di te stesso e torni a guardare le cose che accadono in te, intorno a te. Guarda me, guarda il mio amore per te, guarda il tuo amore per me e troverai la verità che cerchi. Bellissimo, eh? Complimenti, donna. Grazie. Andrea. Va bene. Allora la prossima volta partiamo dalla pagina seguente, pagina 158, dove c'è il titolo Giuseppe morì per malattia improvvisa. Allora una bella benedizione su tutti. Benissimo, allora la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, per intercessione di Maria e di Giuseppe, di San José Maria e di tutti gli angeli santi, scenda su di voi e rimanga sempre. Amen, grazie infinite. Grazie a te. Adesso poi, quando finirai questo libro, mi dirai quale vuoi commentare, perché me ne hai mandati altri tre, ma... Io penso che vorrei fare quello sulla Madonna, almeno così ho pensato io. Potrebbe essere quello, sì, benissimo. Grazie infinite, a presto. Prega per noi, ricordaci nella messa. Sì, anche voi per me. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Sì, buonasera. Pronto, frate Carlo?